Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera e benvenuti alle buonanotte di allineamenti, qui è Gas che vi parla e siamo su Ciao Radio Como. Come state? Spero bene. Allora, cosa abbiamo fatto questa settimana? Stiamo parlando del Brasile, così almeno scappiamo un pochino verso lidi un po' più estivi e illuminati in questo momento che si sta arrivando l'inverno qui a Como. In Brasile c'è un bellissimo sole. E lo so perché, come vi ho detto questa settimana, il nostro Mendo ci ha lasciato e, come avete visto, è stato sostituito da Marco Catania, l'autore che ha vinto il Poetry Slam quest'anno dello Stello Bello. E io proprio per questo oggi porterò una poesia sul Brasile, visto che stiamo affrontando un pochino le tematiche che ha in breve, naturalmente, perché in questi 10 minuti delle buone notti di allineamenti non possiamo esplorare tutto il territorio brasiliano, ma andiamo a cercare proprio quegli elementi chiave. L'altra volta abbiamo ascoltato Caetano Veloso, abbiamo letto una bellissima poesia e oggi ci andremo a focalizzare su un tema che in Brasile è molto sentito, ovvero il tema dell'amore. Partiamo con una canzone, come sempre, partiamo da una canzone che probabilmente ognuno di voi ha già sentito, è stato un tormentone estivo, perché comunque i brasiliani sono i capitani dell'estate, i capitani del surf, della spiaggia, ma sono anche i passionali, sono passionali come il sangue, la carne che mangiano, tutto bello sanguigno, e quindi il tema di questa giornata è l'amore. Come facciamo? Prima ascoltiamo la canzone dei Tribalistas, cioè Se Namora, e poi andiamo a continuare il viaggio nella poesia brasiliana con sempre Carlos Drummond de Andrade, ma questa volta la poesia è un vademecum per scoprire l'amore se si è innamorati. Prima di leggervi la poesia, a questo punto vi lascio con Je Se Namora dei Tribalistas, spero che vi piaccia e a tra poco. Querendo como eu te quero, tô te querendo como Eccoci, ben ritrovati. Come avete visto, i brasiliani hanno una carica, una passione, ma anche quella malinconia, quel sfondo, quella sfumatura che è un misto tra gioia e felicità, ma che ti dà tanto a livello sentimentale, ti prende dentro le emozioni. E così sono anche loro come persone, sono delle persone veramente appassionate della vita e vogliono morderla, vogliono amarla. E quindi per questo ho scelto una poesia, come vi dicevo, di Carlos Drummond de Andrade, un poeta brasiliano che ha vissuto per tutto il Novecento, essendo nato nel 1902 e avendo iniziato a scrivere poesie dagli anni 30, fino ad arrivare all'inizio degli anni 90, perché è morto nel 1987. La poesia che ho scelto di leggervi si chiama O Amor. E naturalmente, visto che non sono un grande brasiliano, ho scelto di leggervi una traduzione. In ogni caso vi consiglio vivamente di leggere, se io adesso ve la leggo in italiano perché non so leggerla in portoghese, quello che consiglio sempre di fare, che faccio anche io ogni tanto, è avere un po' il doppio, leggermi un po' in originale, un po' in una versione tradotta, un po' per non perdere il significato originale, un po' per imparare qualche lingua e qualche parola che può sempre essere utile, perché si può sempre andare a trovare Mendo in Brasile. E basta, ora vi leggo la poesia. O amore, quando si trova qualcuno, il tuo cuore smette di funzionare per alcuni secondi. Fai attenzione, potrebbe essere la persona più importante nella tua vita. Se gli sguardi si incrociano e si sprecano e si specchiano l'uno nell'altro, stai allerta, potrebbe essere la persona che stai aspettando da quando sei nato. Se il tocco delle labbra è intenso, se il bacio è appassionato e in quel momento gli occhi diventano umidi, c'è qualcosa di magico tra di voi. Se l'ultimo e il primo pensiero della giornata è per quella persona, se la volontà è di stare insieme e unire il tuo cuore con il suo e forte, Dio ti ha inviato un dono, l'amore. Se un giorno vi chiederete scusa a vicenda per un qualunque motivo, un abbraccio, un sorriso, una carezza sui capelli saranno più importanti di mille parole. Siete fatti l'uno per l'altro. Se per qualche motivo sei triste, l'altro soffrirà le tue sofferenze, piangerà le tue lacrime. Che cosa meravigliosa. Tu puoi contare su di lui in tutti i momenti della tua vita. Se riesci a pensare il suo odore come se fosse al tuo fianco, se trovi bellissima la sua persona che sta dentro un vecchio pigiama, con vecchie ciabatte e a capelli arruffati, se per tutto il giorno non riesci a lavorare in attesa dell'incontro che ci sarà la notte, se non riesci ad immaginare un futuro senza avere quella persona al tuo fianco, se immaginerai quella persona già vecchia e sarai sicuro di essere ancora pazzo di lei, se preferirai morire prima di vederla andar via, è l'amore che è entrato nella tua vita. Molte persone si innamorano molte volte nella vita, ma poche incontrano il vero amore. O magari li incontrano, ma non prestano attenzione a questi segnali e lasciano che l'amore vada via senza che accada nulla. È il libero arbitrio, per questo si deve stare attenti ai segnali, ma non lasciare che il giorno per giorno ti faccia diventare cieco e non ti faccia più vedere la cosa più bella nella vita, l'amore. E con questo è tutto, vi auguro una buona notte e ci risentiamo per l'ultima puntata sul Brasile settimana prossima. Una buona notte da Allineamenti e da Ciao Radio Como, questo è Ragazzi e a presto. Ciao a tutti. Qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di Allineamenti.